La storia e la memoria di Dino Pesole. La notizia è dei giorni scorsi. Matera è stata designata capitale europea della cultura 2019. Una decisione importante, accolta con entusiasmo dalla splendida città della Basilicata. Il verdetto è stato comunicato da Steve Green, presidente della giuria internazionale di selezione, al ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Matera ha avuto la meglio sulle altre 5 finaliste: Ravenna, Cagliari, Lecce, Perugia e Siena. Il titolo, oltre all'Italia, è stato assegnato anche a Plovdiv per la Bulgaria. Il titolo, oltre all'Italia, è stato assegnato anche a Plovdiv per la Bulgaria. L'espressione più alta dell'arte rupestre sviluppatasi nel territorio della città di Matera è nelle decine di chiese, 155 oggi accertate, scavate nel tufo. Eremi, cenobi, cripte, lauree e basiliche ipogee, molto spesso affrescate, disseminate sull'altopiano murgico e lungo i suoi precipizi o inglobate nel tessuto urbanistico dei Sassi di Matera. Un patrimonio di notevole importanza, tanto che si è soliti far iniziare la storia dell'arte della Basilicata dagli affreschi della cripta del peccato originale. Queste chiese risalgono per buona parte all'alto Medioevo, al periodo in cui la Lucania era contesa tra i domini bizantini e longobardi, e si andava affermando un importante fenomeno nella società cristiana dell'epoca, il monachesimo. Inizialmente tesi a fronteggiare le eresie, i suoi seguaci giunsero a Matera al seguito degli eserciti bizantini e non solo, per fuggire alle persecuzioni dell'iconoclastia. Dunque l'origine di Matera è antichissima e si perde nella preistoria. Per il substrato abitativo, che consiste in grotte scavate nel masso tufaceo, è nota come la città sotterranea, e per la continuità di vita dal Paleolitico ai giorni nostri è ritenuta una delle più antiche del mondo. Proprio l'insediamento della Civita viene considerato il primo nucleo della futura città di Matera. La città doveva aver raggiunto una sua fisionomia quando vi si insediarono le prime colonie greche e quindi con la dominazione romana. Nel 568 sono presenti i Longobardi, cacciati nel 612 con l'aiuto di Costanzio, imperatore di Costantinopoli. Nel 664 entra a far parte del Ducato di Benevento. Cade ancora nelle mani dei Longobardi che nell'867, molestati dai Saraceni, chiedono l'intervento dell'imperatore Ludovico II, il quale la mette a fuoco per poi riedificarla. Nel 938 subisce altre incursioni e spoliazioni dai Saraceni. Contesa dai Salernitani, conquistata da Ottone II e quindi dai Beneventani, è riespugnata nel 978 dai Greci. Ricostruita nel 994 dopo un violento terremoto, è per lungo tempo assediata dai Saraceni. Durante la strenua difesa si registrano avvenimenti di rilievo. Sono in seguito i Normanni a tenere la contea materana alla stregua di uno stato indipendente, al centro di numerosi castelli e terre. Abbiamo in linea Enrico Caracciolo, autore del libro Matera, la città dei Sassi, pubblicato da Ediciclo. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi. Allora, prima di tutto un suo commento sulla designazione di Matera a capitale europea della cultura 2019. Beh, è quello che io speravo e in tutta verità immaginavo nel mio intimo, perché avendo lavorato molto questi ultimi anni a Matera, ho visto che per la sua unicità meritava questo riconoscimento. Non che le altre città non lo meritassero, ma sono molto felice che Matera abbia conseguito questo riconoscimento, perché effettivamente la sua unicità è fuori discussione. Ecco, quindi unicità, una delle caratteristiche dei cosiddetti Sassi di Matera, che lei analizza con precisione nel libro, è la stratificazione degli insediamenti che si sono susseguiti nel corso dei secoli, e questa è una caratteristica molto peculiare di Matera. Direi di sì, e soprattutto i Sassi nella loro essenzialità proprio raccontano quella che poi è la storia dell'uomo, è la pietra che racconta i sentimenti, secondo me. I vuoti dei sassi è come se fossero l'anima delle persone. Durante il mio lavoro ho avuto l'opportunità di conoscere persone che sono state sfrattate dai Sassi con la famosa legge del 52, che sono stati poi i primi a riabitare i Sassi. Infatti li ho chiamati riabitanti, sì, di Matera, perché hanno sempre creduto nel valore di questo luogo, e questo riconoscimento che la città adesso ha avuto non fa nient'altro che dare ragione a queste persone che negli anni 60, 70, anche 80 venivano considerati nient'altro che visionari, per non dire altro, voglio dire, perché i Sassi erano considerati qualcosa di, appunto, la famosa vergogna nazionale, no? Certo, beh, Matera è una delle città più antiche del mondo, dall'insediamento delle prime colonie greche alla dominazione romana, poi Longobardi, Saraceni, Normanni. Ecco, ma come si caratterizzano queste dominazioni successive nelle identità poi della città? Attualmente, secondo me, si può sintetizzare questa stratificazione storica nella caratteristica del materano, che a mio avviso ha un aspetto caratteriale molto importante, che è quello della facilità di integrazione senza perdere contatto con le proprie radici. In realtà non bisogna dimenticare che i Sassi di Matera sono patrimonio UNESCO, e la motivazione, sì, per cui sono patrimonio UNESCO è da individuare nella continuità abitativa. Matera è uno dei luoghi al mondo in cui la continuità abitativa da 10.000 anni praticamente è un aspetto caratterizzante il territorio. E poi c'è anche in qualche modo l'effetto, se si può dire, del monachesimo, perché c'è anche questa parte fondamentale, no, della società cristiana dell'epoca. E anche questo in che modo interagisce con la storia della città? In maniera assolutamente spontanea. Cioè, il monachesimo, siamo più abituati noi a considerare le chiese rupestri, diciamo, nel nostro immaginario il rupestre è più la chiesa, no? Sì. Mentre i Sassi, guardando la Murgia Materana, oltre la Gravina, vedono queste cavità dove, appunto, le cavità abitative degli uomini parlano con le cavità religiose del fenomeno del monachesimo. Quindi, dal punto di vista del messaggio che la città lancia, è dove si può assolutamente dire che è un punto in cui la spiritualità si incontra con la vita quotidiana, e dove la spiritualità non è vista unicamente come un luogo eremitico, ma un luogo dove si può interagire e vivere socialmente in quelli che sono gli spazi offerti da Madre Terra. Il punto adesso che attiene agli attuali amministratori, ma anche al governo, è come valorizzare al meglio un patrimonio storico-artistico di tale portata, che, come abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori, risale indietro nel corso dei secoli. È sufficiente la designazione per far sì che ci sia, come dire, un investimento da parte complessivo, culturale oltre che finanziario, da parte dello Stato in un progetto così importante? La mia opinione è no, nel senso, è un ottimo punto di partenza. Diciamo che il processo di rivalutazione e valorizzazione della città è già iniziato. La città offre tantissimo da questo punto di vista. Come dice un personaggio che ho incontrato durante il mio lavoro, in cui raccoglievo notizie per scrivere la mia guida su Matera, è molto interessante, Ralph Kozlowski, che è un tedesco che vive a Matera, uno scultore che vive a Matera da tantissimi anni, parla benissimo tra l'altro il dialetto materano, si è integrato perfettamente. Ecco, lui soffre del fatto che i Sassi di Matera, da quando hanno cominciato a essere valorizzati, in un certo modo è come se avessero perso anche una parte della loro anima. Quindi io mi auguro che questo processo di valorizzazione sia non persegua, diciamo, quello che poi diventi un prodotto unicamente rivolto al mercato, no? Sì. Ma venga salvaguardata quella che appunto è la radice storica di questo luogo. Un'ultima domanda, è una curiosità: cos'altro ha scoperto nel suo viaggio, in questa guida che ci aiuta a entrare nei meandri, nella storia di questo importantissimo sito, patrimonio mondiale dell'UNESCO? Ho scoperto tante cose, però io amo sempre dire che ho scoperto tante persone. A me Matera è stata raccontata dalle persone che ho incontrato, molte casualmente. La giornata nel mio itinerario comincia, per dire, al caffè Tripoli in piazza Vittorio Veneto, dove già c'è un grande scambio di incontri con le persone, e ho trovato una grande capacità comunicativa da parte delle persone. Quindi io c'è un capitolo che si chiama Cuori di Matera, dove ho individuato cinque persone o personaggi, preferisco chiamarle persone, che con le loro storie, col loro modo di essere, il loro modo di vivere, mi hanno aperto dei punti di vista sulla città che altrimenti non sarebbe stato possibile. Sono delle porte di ogni persona che incontri a Matera è una porta d'ingresso nella città, e questo è secondo me il valore aggiunto di tutto questo lavoro che io ho sviluppato a Matera. Adesso la sento un po' come un luogo familiare, ecco, direi. Bene, grazie moltissimo Enrico Caracciolo, appunto autore del libro Matera, la città dei sassi, che ci ha condotto per mano alla scoperta di questa bellissima, ormai quasi, speriamo, capitale europea della cultura 2019. Buona serata. Buona serata e grazie a voi.